Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Parliamo dei grandi fenomeni, come dire, popolari, di racconto popolare della società contemporanea. Questi fenomeni, il racconto popolare che incanta folle, milioni e milioni di persone, che decide ciò di cui la gente discute, poi che decide ciò di cui discutono anche gli intellettuali, i critici, eccetera, si chiama in televisione cultura del reality, reality show. Nacque nel 2000 con il Grande Fratello, che è un fenomeno praticamente universale, un fenomeno mondiale, e intorno a questo formato si sono poi moltiplicate le possibilità, le occasioni, le varianti di ogni genere e di ogni tipo. L'ultima, ed è la seconda cosa di cui parleremo, anche se è molto diversa, notevolmente diversa e per certi aspetti anche radicalmente diversa, è questo grande successo non solo del Grande Fratello, che è finito il 20 aprile, ma di X Factor, che è una trasmissione invece che è andata in onda su Rai 2, anche quella di grandissimo successo. Il punto è abbastanza semplice, secondo me, anche se naturalmente noi lo approfondiremo. La televisione ha capito che ci sono due cose che piacciono molto e che sono molto popolari e che sono alla portata di tutti e che sono nelle aspirazioni di tutti. La prima è farsi i fatti degli altri, cioè sapere quello che succede in casa degli altri. E questo è il Grande Fratello. E la seconda sono questi talent show di grandissimo successo, quello di Maria De Filippi, Amici, ma questo diciamo un po' più alto come obiettivo, come costruzione, no? Questo non, che si chiama appunto The X Factor, che è legato invece alla musica, che è legato... E qui invece non è farsi i fatti degli altri il problema, ma cercare lavoro, successo, esprimersi, sostanzialmente diciamo vivere, integrarsi nella società. Che cosa c'è di meglio di un talent show per promuovere un interesse collettivo fra i giovani, una grande forza di identificazione collettiva nei supereroi, diciamo, che si presentano e che elaborano attraverso nel tempo, durante le settimane, nelle lunghe giornate, nelle lunghe ore dei palinsesti televisivi, una loro rappresentazione. Naturalmente attraverso queste trasmissioni passa il peggio e anche il meglio, come sempre nella realtà, e anche nella realtà filtrata dalla televisione. Per esempio, il vincitore di quest'anno, a sorpresa, è un rom. È stata disegnata la caricatura di un paese razzista, di un paese che non integra, di un paese dove praticamente a tutti gli angoli di strada vengono bastonati e massacrati gli immigrati, di un paese che non assiste, che non cura, che non ama, che non accoglie, eccetera. Una cretinata, secondo me, di proporzioni clamorose, che ci ripetiamo continuamente proprio per fare il gargarismo della solidarietà e della cultura cosiddetta sociale. La realtà è ovviamente diversa, è sfaccettata, è complicata, è contraddittoria, però poi insomma l'Italia è un paese che accoglie, e come se non accoglie, impara ad accogliere con un po' di travaglio, come naturale, con un po' di dolore, ma impara ad accogliere, accoglie, la direttrice di marcia è quella, la seguono tutti i governi, tutte le istituzioni, e nell'accoglienza c'è anche questo fatto a sorpresa, che un rom, Ferdi, diventa il vincitore dell'edizione Grande Fratello. E che spesso i vincitori sono gli idoli ideologicamente corretti dell'opinione comune. È stato il transessuale Luxuria nell'altra edizione ed è il rom, cioè le minoranze. Ci sono varie ipotesi di cui discuteremo anche sul perché vincono questi supereroi, in questo caso il... E naturalmente ci sono poi molti intellettuali che invece rosicano, dicono no, non è vero, è sbagliato, la capanna dello zio rom, il rom che vince, la dimostrazione che attraverso gli sms noi vogliamo assolverci dal fatto di essere in realtà dei gran razzisti. Vabbè, la televisione è fatta per dire stupidaggini, ne diremo tante anche noi, se ne dicono e se ne scrivono tante sui giornali. Cercheremo di farlo con molta cura, con molta puntigliosità e meticolosità. Bene, cerchiamo di capire chi è questo Ferdi, il rom vincitore del Grande Fratello. È un ragazzo, è arrivato in Italia 10-12 anni fa su un gommone, un'esperienza traumatica, viene dal Montenegro, ha attraversato il canale d'Otranto, ha una storia personale e familiare di quelle che sono molto ricercate per il casting del Grande Fratello, una storia marginale, una storia sfigata. Ecco. Ad Aldo Grasso, che è il papa della critica televisiva italiana, il critico del Corriere della Sera, è un grande conoscitore storico della televisione, vorrei fare una domanda molto semplice. Questo Ferdi ha detto, a proposito di, così, della capacità di, virgolette, emendarsi del genere televisivo, che si dice che è basso il Grande Fratello, no? Che appunto parte dal... Ha detto una frase, è un suo ricorrere, viviamo per qualcosa di più grande, che potrebbe essere pronunciata dal Papa regnante, da Benedetto XVI o dal Presidente degli Stati Uniti Obama. Una tipica frase di una grande retorica sul destino personale, sul destino individuale, sul destino collettivo dell'umanità. Insomma, una frase che mette in contatto l'umano e il divino. Viviamo per qualcosa di più grande. Una grande retorica sul senso della possibilità umana. Quindi è un filosofo che ha un effetto liberatorio, insomma, Ferdi, o sbaglio? Beh, pronto? Pronto. Sì. Ferdi è un grande filosofo della quotidianità, ha detto la frase giusta, magari gliel'hanno anche scritta, ma la sua storia è esattamente la storia del film The Millionaire, non c'è nessuna differenza, cioè è la storia che parte da una condizione disperata, è una storia di speranza, è una storia di un grande amore, è riuscito a conquistare la più bella della casa, Ferdi, c'è il riscatto sociale in questa vittoria e quindi era giusto che vincesse lui, anche se era un po' programmata la sua vittoria, però è giusto che abbia vinto lui. Sì, come tutte le cose reali, poi i programmi appunto dei reality sembrano falsi, no? Sembrano farlocchi, sembrano sì, costruiti. La storia che ci siano degli sceneggiatori alle spalle che tramano, che dicono ai concorrenti cosa devono dire, eccetera, è una bufala incredibile. Insomma, il vero lavoro è... ne accennava anche lei, è nel cosiddetto casting, cioè è nella scelta delle persone. Ogni persona è più interessante se ha una storia alle spalle e poi queste storie si incrociano tra di loro e quindi così, insomma, la bellezza, l'interesse della trama nasce proprio da questa scelta iniziale. Tanto è vero che uno dei meccanismi di questi ultimi reality è proprio quello di introdurre persone nuove e cacciar via quelle che non funzionano, cioè all'inizio si sceglievano 10 persone e bisognava tenersene fino alla fine, adesso ci sono vari strumenti per poter introdurre nuove persone ed eliminare quelle che non funzionano. Si eliminano quelle che narrativamente non funzionano. Sì, oggi sull'Unità c'è una bella intervista. L'Unità oggi è molto strana, lo devo dire con sincerità. Il giornale di Concita De Gregori, un giornale molto ideologicamente corretto, c'è il giornale ultra progressista, eccetera, si vede proprio che è andato in puzza, come si dice a Roma. Non gli è piaciuta questa cosa del rom che vince il Grande Fratello. È un titolo di un articolo dell'Unità, quello che citavo prima, la capanna dello zio rom. La tesi è: sì, va bene, lui è grazioso, sì, va bene, lui è stato promosso dalla televisione attraverso la vittoria, adesso lo pagano, gli danno 300.000 euro e da assistente cuoco in un ristorante di Fano cercherà di costruirsi una casa, una famiglia. Sì, ha avuto successo, sì, si è innamorato, sì, si è integrato, sì, è grazioso, parla bene, eccetera, eccetera. Però la realtà è tutta l'altra, quella che dicevo prima, cioè che è bestiale, viene descritta, raccontata in un modo praticamente, insomma, è una realtà di deportazioni, quelle realtà che descrivono in genere gli ispettori di Bruxelles quando vengono in Italia e vabbè, che sono secondo me assolutamente contrarie alla verità fattuale delle cose. Certo che esistono problemi di integrazione, vorrei vedere, ma non esiste un'ondata di razzismo anti-rom in Italia. Però c'è un'intervista molto bella, Grasso, con un selezionatore proprio del gruppo del Grande Fratello, che dice una cosa interessante. Dice: noi non è che li scegliamo sulla base di categorie ideologiche, dice questo lo prendiamo perché è rom, questo lo prendiamo perché è transessuale. L'importante è la storia personale e la disponibilità che hanno questi personaggi che noi scegliamo a metterla in gioco in un collettivo di altri, no? Di altri come loro. Quindi quando a un certo punto pare Ferdi abbia detto, veniva introdotto un concorrente con una grave disabilità, dice: ossia, sono in pericolo perché questa è una storia più sfigata della mia, che ho trovato una cosa veramente sublime, perché vuol dire che questi personaggi poi sono autoconsapevoli dell'uso che di loro viene fatto nel corso delle trasmissioni. Cioè, ossia, questa è una storia più sfigata della mia, lo ha visto come un pericoloso concorrente nell'ambito della sfortuna commercializzabile. Insomma, io questo lo trovo veramente straordinario, cioè il casting mi sembra la metafisica della televisione moderna. Sì, è esattamente questo, nel senso che in realtà il Grande Fratello ha un impianto molto antico ed è l'impianto classico del feuilleton, cioè nel senso che bisogna trovare dei personaggi che abbiano delle storie che possono in qualche maniera entrare in questo grande alveo del feuilleton, perché poi è di questo il successo, nasce proprio da questo, cioè che si raccontano delle storie molto antiche, come si può uscire dalla povertà, come si può vivere con la cecità, come si può dichiarare pubblicamente la propria omosessualità, cioè sono storie che da una vita tormentano gli uomini, no? E quindi si è trovato questa formula, secondo me, molto bella, molto complessa, che è quella del reality, che permette a questi personaggi di apparire, di dichiararsi, di raccontare le loro storie. Certo. Uno dei dubbi è come mai la gente poi ha votato per Ferdi. Allora, Carlo Freccero, sempre sull'Unità di Oggi, che è molto informata, insomma, cioè è piena di cose, insomma, dice perché le minoranze entrano in gioco, si organizzano, si mobilitano, e la loro pressione, è curioso, no? Questi spettacoli, questi reality fanno, mi rivolgo adesso a Antonio Campo dell'Orto, che è vicepresidente di MTV Network, un grande network di televisioni, in particolare per il pubblico giovanile, e presidente di MTV Italia. Ed è un creativo importante, insomma, uno che ha costruito la televisione, i palinsesti della Sette. Io ho lavorato con lui per alcuni anni alla Sette, insomma, è stata comunque una televisione che si è fatta notare molto per essere piuttosto innovativa. Capo Dall'Orto, vorrei sapere questo: come si costruisce poi la battaglia navale a favore dell'uno o dell'altro nei reality show? La verità è che appunto la televisione ha la capacità, come è stato detto anche Aldo Grasso, di ridurre le distanze, quindi di raccontare delle storie che appunto vivono di caratterizzazioni e anche di disponibilità delle persone che le vivono, come in questo caso. E poi è vero che nei reality, e questo non vale soltanto al Grande Fratello, ma vale molto anche in reality come quello che è appena finito, X Factor, che è chiaro che vivono di comunità che in qualche modo supportano le candidature, che possono essere comunità di fan nel caso degli artisti musicali, o può funzionare anche il meccanismo che raccontava Freccero, che è quello della comunità di simili, in questo caso al vincitore, che in qualche modo lo supportano alla loro avventura, dove c'è un meccanismo sia di supporto che di identificazione. E quindi da un lato c'è il grande pubblico che si vede raccontata una storia, ma dall'altro c'è anche la base più così di supporto dei fan, che fanno in modo che questa cosa poi porti alla vittoria. Sì, c'è anche un elemento elettorale, veramente da questo punto di vista è straordinario, comprende tutto: il feuilleton, il racconto, il casting, la storia, le elezioni, il voto, lo schieramento, la mobilitazione, l'identificazione, i supereroi. Vedo che Filippo dalla provincia di Lucca ci vuole dire qualcosa, poi volevo chiedere qualcosa a Mara Maionchi, che è il nostro ospite, la produttrice discografica e giudice di X Factor. Sì, Filippo. Scusi, avevo dei problemi sulla linea. Lei ha dei dubbi, mi pare, sulle vincite, sul meccanismo. Pronto? Filippo, prego. Eccomi, sì, buongiorno. Senta, niente, io volevo far presente questo. Io non credo che ci siano delle vittorie precostituite dietro questo Grande Fratello, nel senso che io ho guardato quasi tutta la trasmissione e devo dire, c'erano altre storie con delle trame abbastanza toccanti all'interno della casa, tre o quattro. Io penso piuttosto questo, che Ferdi rappresenti in qualche modo, racchiuda un po' quella che è oggi la nuova generazione dei ragazzi di 20 anni, dove c'è molto di vissuto e dove c'è anche molta speranza nel futuro. È un po' perdente la figura del ragazzo palestrato, del ragazzo bello, ragazzi che forse andavano bene 10 anni fa nella trasmissione, no? Cioè, Taricone, Pietro Taricone. Sì, un Taricone, sì. Ecco, poteva essere perfettamente un ormeggiatore di oggi, no? Però se la televisione diventa ed è lo specchio della società, si nota questo progredire, io spero, no? Perché insomma, alla fine Ferdi è un ragazzo giovane con dei principi sani, dove c'è una storia tragica alle spalle, ma comunque la speranza nel futuro. Se si guarda anche la vittoria di un altro reality come quello dell'Isola dei Famosi, anche lì alle spalle di Vladimir Luxuria c'era un percorso terrificante, che poi con la vittoria reality diventa un trionfo la tua storia, però alle spalle hai senz'altro un tessuto tragico. Accidenti, che modo consapevole di guardare la televisione. Lei è un critico potenziale, complimenti Filippo. Senta, Mara Maionchi, buongiorno, lei è considerata un personaggio straordinario da tutti, soprattutto dai milioni di intellettuali che guardano X Factor, nelle redazioni dei giornali, dovunque si dice che è il grande programma dei laureati, cioè che è il programma che ammettendolo e non ammettendolo, tutti coloro anche che hanno, diciamo, una qualche base culturale, diciamo, superiore alla media, però lo adorano perché è un programma complesso, sfaccettato, molto ben fatto, grandi scenografie, appunto anche lì un casting clamoroso. E poi ci siete voi, i giudici, la Super Simo, Morgan, Mara Maionchi, e siete come un... Che mondo siete? Ma da dove venite? Come è nata questa cosa? Buongiorno. No, è nata, per quanto mi riguarda, Super Simo non ha bisogno di spiegazione. Sì. Io faccio il discografico dal 1967 e naturalmente sempre in una condizione in cui non c'era l'apparenza. A un certo punto mi hanno proposto questa trasmissione, che è che è un format inglese fatto, devo sì, dire, molto bene da questo signore che Simon Cowell, che è un produttore discografico, che ha trovato così questa lettura attuale sulla possibilità del lancio di un artista. Cioè, scusi Mara, l'idea è quello che si fa, come diceva lei, dietro le quinte, senza l'apparenza, per decenni, cioè formare i cantanti, costruire percorsi, giudicare, criticare la musica, cercare di migliorare, eccetera, facciamola in televisione. Questa poi è l'idea, è semplice abbastanza. Questo credo che abbia pensato Simon Cowell, perché ha fatto poi, ha avuto anche risultati discografici importanti, vedi la Leona Lewis e non solo, e altri. Questo caso ultimo, eccezionale, che però non è di X Factor, ma è di questa specie di trasmissione inglese, tipo, diciamo, il nostra corrida, in cui sta facendo successo questa signora di 54 anni, questa Susan Boyle, che è stata veramente una rivelazione. È quella che dice di se stessa: io sono un garage? Questo non l'ho letta, sì, però sì, è una detto, signora io sono un che garage, ha una certa età. Io dico, io insomma, sono un armadio, lei esagera, io sono un garage. Beh, in effetti è una signora di sei mesi più giovane di me, che in effetti devo dire che apparentemente non è proprio una super bellezza. Basta, però canta bene e ha avuto ragione. Devo dire che questo programma è vero che può essere discusso in mille modi, ma in effetti ha dato dei risultati anche proprio di ricerca di talenti che magari non saremmo riusciti a entrare in contatto in altra maniera. Magari le case discografiche non sono più quelle di una volta. Io mi ricordo la RCA di Ennio Melis, sentivano tutto, avevano tanti produttori interni che lavoravano alla ricerca di nuovi talenti, alla ricerca di nuovi autori. Ecco, adesso tutto è diventato più difficile. Noi piccoli, io adesso lavoro per conto mio con mio marito, non sempre riusciamo a entrare in contatto. Lei, amici l'ha mai visto invece il talent show? L'avevo vostro, visto, lo conosco, non l'ho seguito sempre. Devo dire che mi sembrava leggermente differente. Io per esempio non ho nessuna possibilità né nessuna qualità per insegnare niente a nessuno. Il mio mestiere è un un altro, è cercare quello di avere l'intuito, la fortuna e l'accortezza di individuare il talento e poi di illuminarlo come se fossi uno specchio per cercare che lui trovi la sua soluzione, i suoi difetti. Ma non è che io posso insegnare a cantare, anche perché secondo me a uno è una che cosa sa filosofica, cantare, come Socrate che non poteva insegnare il concetto, ma no, ma io non posso insegnare, non sono maestro. Voi estraete dai talenti la loro verità, questa sarebbe. Cerchiamo di fare, va io bene. Almeno ho cercato di fare questo. Va bene. Ecco, ci ha raggiunto 800 24 00 24, vedo un sacco di telefonate di ragazze, è un altro degli argomenti che dovremmo affrontare, pare che i reality show e i talent show siano affollati poi nelle telefonate, nel voto di pubblico femminile. Ci ha raggiunto Simona Ventura, Super Simo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come va? Giuliano. Bene, bene. Ha scritto Aldo Grasso, bisogna riconoscere che Simona Ventura è stata brava a domare Morgan, a far sì che il suo protagonismo non oscurasse i concorrenti, a trasformare Mara Maionchi in personaggio, credo non sia stato difficile perché è di una simpatia naturale estrema, e a infonderci la certezza che X Factor fosse meglio di Amici. Si riconosce in questo ritratto? Ma, intanto è un ritratto positivo, ne sono felice perché mi fa sempre piacere. Effettivamente sì, domare Morgan proprio no, però cercare di capirci sicuramente col tempo, insomma, riusciamo a capirci di più e cercare di non farmi, insomma, fagocitare dal suo egocentrismo, quello senz'altro. Dunque, dice che lei riassume, questo è Walter City che parla, che è uno scrittore raffinato che si occupa di televisione. Lo conosco, sulla stampa, sì, fantastico. Cioè, ha detto: la Super Simo riassume nel proprio corpo la doppia lettura consentita da questo nuovo tipo di show. Contemporaneamente madre e clown, stonata e domatrice, sexy e tormentata, ambasciatrice del senso comune e icona potentissima. Ma il peso che, voglio dire, lei ha fatto Le Iene, quelli che il calcio, sempre con grande professionalità, continua a farlo, L'Isola dei Famosi. Sì. Sembrerebbe, uno dice, io sono un conduttore televisivo, lasciatemi stare. Invece il peso iconico di tutti questi giudizi critici, lei come sopporta questa roba? Ma io, intanto chiedo scusa, ma leggo i giornali per un periodo, nel senso che non è che li compro immediatamente, quando capisco benissimo quando è il momento delle critiche, ma credo che sono sempre stata una persona di spettacolo che ha sempre diviso molto, no? Divido le persone che mi seguono, divido i critici, perché non sono proprio la tipica conduttrice tradizionale, no? Sono sempre stata abbastanza originale, perché così sono nella vita, sono clown, sono mamma, sono sexy, sono tormentata e sono vere tutte queste cose, così sono nella vita, così porto il mio essere nella vita anche nella, diciamo, nella conduzione, nell'essere autore dei miei programmi, eccetera eccetera, per cui se, essendo una conduzione completamente diversa, credo che questo divida molto, no? Soprattutto un pubblico che ama essere, che vuole essere rassicurato come pubblico italiano. Quindi è molto difficile fare delle cose nuove. Quando tu crei un'innovazione, sicuramente crei anche una spaccatura nel pubblico, perché insomma non sono la classica, diciamo, come Galvani vuol dire fiducia, la classica conduttrice, ecco, tradizionale, che quindi insomma rassicura, quello senz'altro. Senta, e quando invece, ecco, cito Marco Belpo, politiche, invece un intellettuale un po' più con la puzza sotto il naso da questo punto di vista, beh, dice certo. Lui, Marco Belpoliti, dice la televisione, meglio la neotelevisione berlusconiana, modello straordinario di un ordinario pensiero unico, ha realizzato questo, una tendenza omologante, appiattente, anche gli intellettuali raffinati sono equiparati a questa tendenza e genuflessi, tutti osservano la stessa cosa. Chi dice o mostra cose diverse, chi esce dal coro con provocazioni oppure con persistente silenzio, viene immediatamente eliminato. Cioè l'idea è che c'è una pseudo vita omologante e banale che la televisione propone, e lei ne sarebbe una grande protagonista, sarebbe una sciamana di questa pseudo vita. Anche questo è un po' dura. La vedo dura, perché io sono 7-8 anni che lavoro alla RAI, quindi insomma la vedo molto dura, però comunque certamente c'è un modello televisivo che può piacere o non piacere, è così che da tanti anni, con la nascita della TV commerciale, io ho lavorato a Mediaset 7 anni, quindi lo so, ma si parlava di prodotto, era tutto molto creativo, non so come dirlo, era tutto molto, eravamo entusiasti di fare delle cose nuove, eccetera, eccetera. Ma intanto c'è la TV generalista, ma c'è anche insomma Sky, e quindi l'Italia sta crescendo anche da questo punto di vista, di tanti programmi, di tante proposte, ci stiamo abituando alla TV. E la preoccupazione di Campo dell'Orto, che è qui in, eccolo, in, che ha detto, dice no, a me piacciono questi programmi, la monocoltura no. Dice, in tutto il mondo esistono, c'è Posta per te, l'Isola dei Famosi, il Grande Fratello, ma in nessun paese del mondo in TV c'è solo quello. Campo dall'Orto, è vero che sono preponderanti e un po' prepotenti questi palinsesti di reality? Sì, però questo riguarda un po' il baricentro della televisione italiana, nel senso che questo non va data come colpa a questi reality. La colpa, se vogliamo, è un po' più relativa a come vengono distribuite le risorse, e quindi come le risorse poi vanno a definire una monocultura. Però la Super Simo diceva c'è Sky che cresce, insomma l'offerta è larga, non c'è solo... No, ma questo, diciamo che nessuno misura l'offerta dal punto di vista di somma di quantità, no? Cioè nel momento in cui andiamo al cinema abbiamo 10 sale, non è che uno misura la quantità rispetto a quante sale ci sono, ma alla diversità culturale che c'è dietro, alle diverse offerte. Proposte, è vero che in Italia questa cosa non sta avvenendo. Dunque c'era un Roberto da Milano, eccolo qua, e qui facciamo un grande spottone alla Super Simo. Roberto. Sì, sono io? Sì. Sì, buongiorno. Se dice la sua opinione, io ce l'ho qui già appuntata dai bravissimi nostri agenti del call center. Cioè, bravissimi veramente. Premesso che per lavoro frequento da dietro le quinte la televisione, dividerei i reality in due grosse categorie, cioè quelli in cui veramente si solletica il voyeurismo del pubblico e quindi non è richiesto ai partecipanti di sapere fare qualcosa se non di rappresentare se stessi, e poi quelli appunto nati ultimamente che sono i talent show. Mm-hmm. Una cosa che io non sopporto, per esempio, di amici che guardo più per lavoro che per passione, è il fatto che si sia introdotto questo contraddittorio tra ragazzi e insegnanti, e a volte si fa fatica a capire chi è il ragazzo e chi è l'insegnante. Ed è veramente deleterio dal punto di vista pedagogico, visto che io ho due bambini piccoli. Però bisogna riconoscere alla Maria De Filippi di avere, come dire, fatto la pioniera nel campo, no? No, ma certo, lei voglio dire, in tinte della brioche vuoi... in questo genere di... Invece apprezzo moltissimo un talent show come X Factor, dove chi è capace va avanti, chi non è capace si sente dire, guarda, non è il tuo lavoro, vai da un'altra parte, voglio dire. Amici ha introdotto questa. Mara, siete così severi? Grazie Roberto. Mara, siete veramente così severi? Cioè, fate la selezione che nella società meritocratica, che nella società si dice non viene fatta? Assolutamente sì, ma insomma non vedo perché uno deve cantare se non è capace, scusa, questo non lo trovo assolutamente. Poi io posso sbagliare perché faccio una scelta sbagliata, e questo sono io che sono stato un somaro, ma secondo me assolutamente, se uno non canta almeno per meritocrazia siamo rovinati, diamo almeno questa chance. Assolutamente sì, ma credo anche gli altri, anche invece la corrida, il famoso la corrida, che a suo modo era un talent show, è il contrario esatto, no? La corrida dice, non importa se non importa se canti bene o male, anzi divertici, intrattienici. Certo, ma quello è non un talent show. Non è un talent show, voglio dire, lì arrivano di tutto e fanno il loro numero, alcuni fanno ridere, alcuni molto meno, altri sono piacevoli, per cui ma direi che il concetto è diverso. Il fatto era proprio la volontà e il desiderio di trovare un talento, per cui è assolutamente differente. Poi ci sono i freak che si presentano per divertirsi, per farsi vedere dalla mamma, e fanno naturalmente spettacolo, ma sono già condannati quando si presentano, voglio dire, è impossibile. Vorrei fare una domanda a Grasso, ma estenderla anche a Super Simo e a Mara, perché bisogna un po' mescolare i generi. Allora la domanda è questa: lei dice la TV reinventa i propri linguaggi, come abbiamo visto è riuscita a farlo con il reality, come era riuscita a farlo con i telefilm. Prima i telefilm avevano il complesso di essere dei film veri, invece poi hanno capito la serialità, la bellezza del racconto specificamente televisivo, che solo in televisione si può fare, attraverso i telefilm sono diventati il nuovo Balzac. Benissimo. Ma in politica invece c'è sempre il pastone al telegiornale, ma è possibile che non si riesca a inventare per la politica, per l'informazione, per appunto i telegiornali una formula nuova? Ah, questo è il vero mistero, guardi. Ogni sera io mi stupisco di come possano ancora gli spettatori guardare quell'inguardabile cerimonia che è quella del bastone, insomma. Non lo so, cioè sì, non riesco a spiegare nel senso proprio tecnicamente, perché i telegiornali sono ormai diventati una specie di appendice della politica, per cui funzionano così e tutti funzionano in questo modo, insomma. Ma anche sul piano del linguaggio il telegiornale non cambia mai. È vecchio, sì, è verissimo, è verissimo. Ma infatti, perché non mettono degli autori? Perché non cercano di perché costruire? Non mettono gli autori? Perché i giornalisti televisivi italiani hanno una presunzione incredibile, credono, come dire, che tutto quello che si fa al di fuori del loro lavoro televisivo sia spazzatura, perché loro sono i giornalisti, perché qui e là. Invece ci vorrebbe veramente un autore che insegnasse loro come si fanno i telegiornali, come si raccontano le storie, come... Tanto è vero che poi sono sempre incredibilmente superati da altre trasmissioni, cioè le inchieste non le fanno più loro, quelle poche inchieste che si fanno ancora, i grandi racconti sul terremoto non le hanno fatti loro, insomma, cioè questo è il dramma vero. Insomma, nella grande storia di una televisione che rinnova i suoi linguaggi, eccetera, c'è questa catastrofe dell'informazione telegiornalistica. Sì, che è sempre sì, perché uguale. Ad esempio nel caso dei talent show di X Factor, sì, la cosa proprio più interessante è proprio questa, che la musica non funzionava più in televisione. Dopo un minuto e trenta, erano stati calcolati persino che si sentiva una canzone, c'era il cambio di canale perché proprio non funzionava più. L'idea invece di reinventare proprio in termini puramente televisivi la musica, cioè quindi metterla dentro un reality, seguire i cantanti, fare le strisce quotidiane, insomma, cioè proprio... Certo. È diventata televisione, quindi sì, c'era stata addirittura la crisi di Sanremo l'anno scorso, la crisi di Sanremo, insomma, da anni. Le canzoni poi, pure semplici. Se posso dire una cosa sugli Prego. Intellettuali che guardano le cose, è divertentissimo la serie di equivoci in cui cadono gli intellettuali. Lei dovrebbe fare una trasmissione un giorno sui danni che ha fatto un libricino del filosofo Karl Popper, che si chiama Televisione Cattiva Maestra, che è un libricino di uno che non ha mai visto la televisione in vita sua e che ha scritto soddisfacendo tutti gli istinti più bassi degli intellettuali nei confronti di questo mezzo. Dunque, si è partito dal fatto che X Factor ci sono dei laureati che lo guardano, che è un dato molto fisiologico, cioè dove c'è pubblico giovane ci sono più intellettuali. Siti, nel quel bel pezzo che ha fatto per la stampa, sì, ha raccontato che lui con altri intellettuali guardava X Factor, che è una cosa, come dire, che si fa da sempre. Arbasino racconta che Luchino Visconti amava durante il Festival di Sanremo radunare i migliori intellettuali e guardare con loro e ridere di Sanremo, eccetera, no? Gli americani chiamano guilty pleasure, no? Quelle cose che si fanno, il piacere colpevole, cioè tu guardi una cosa. Politi prende alla lettera questa confusione che c'è stata fra laureati e intellettuali e spara a zero sul fatto che gli intellettuali, addio, sono finite, un pensiero unico, omologazione, eccetera, non accorgendosi che buona parte della televisione è molto, molto, molto più interessante, ad esempio, della narrativa che normalmente lui recensisce. Questo è il dramma della cultura italiana. Date sempre dei colpi bassi sulla storia della narrativa, degli scrittori, cioè, perché anche gli scrittori hanno un rapporto terribile con la televisione. Ma no? Sì, cioè, quando, cioè, intanto amano la televisione soltanto quando devono presentare il libro, sì, altrimenti ne parlano male. Oppure, cosa più raffinata che si fa recentemente, che parli male dei programmi dove non ti invitano e parli benissimo dei programmi che ti invitano. Bene, 800 24 0024, i reality show, i grandi supereroi del nostro tempo, i talent show, Matteo, pure Ferdi, il Rom, Benedetta da Roma. Pronto, buongiorno. Cara, dica. Dunque, io sono, ho una visione doppia sulla situazione, nel senso che per quanto riguarda soprattutto X Factor, cioè il reality come talent show, sicuramente è fatto molto bene e ci credo che lo guardino anche gli intellettuali, perché in fondo la musica, anche se pop, la canzone è una forma d'arte, quindi come tale è giusto che abbia anche un pubblico, tra virgolette, colto. Quello che io metto in discussione è ciò che c'è dietro. Io non credo assolutamente che tutti i partecipanti di X Factor siano personaggi che vengono fuori dai provini. Credo che in un momento di grande crisi della musica, della casa discografica, della vendita dei dischi, possa esserci un progetto comune secondo il quale una casa discografica decide di investire in un programma televisivo portando proprio i talenti sconosciuti, magari che hanno fatto una gavetta, anche perché loro stessi non lo nascondono, i personaggi di quest'anno di X Factor, molto più della scorsa edizione, parlavano del fatto che avevano fatto concerti, insomma, che erano comunque navigati. Quindi io non credo assolutamente che, magari qualcuno sì, qualcuno verrà fuori dal provino, però credo che ci sia un grosso investimento delle case discografiche. Queste Bene. Persone non sono persone che vengono dal niente. Bene, sentiamo una breve risposta di Mara su questo e poi abbiamo Angela da Roma. Prego, Mara. Ma il fatto che questi ragazzi abbiano suonato in giro tra di loro a livello di dilettanti o di buoni dilettanti non vuol mica dire l'investimento delle case discografiche su una cosa così impossibile. Intanto c'è un riferimento a una sola casa discografica e poi questa casa discografica ha un'opzione che poi deve lasciar libero entro un mese dalla fine del programma. No, credo che questa è tutta gente che ha passione e chi ha passione coltiva la sua passione fin da piccolino, suonando nei pub, avendo amici che suonano, frequentando posti dove si trovano i musicisti, i cantanti, ma assolutamente nessun intervento, perché non sai neanche cosa succederà, se saranno capaci, per cui sta a noi scegliere e cercare di portarli avanti e tanti di loro magari non ce la faranno oltre questo scopo. Insomma, per cui credo che la signora si sbagli proprio. C'è una quantità, c'è una dose di spontaneità notevole. Angela da Roma mi pare caduta nella segnalazione, invece Gabriella da Verona spero di no. Gabriella introduce un elemento critico sul nostro ottimismo a proposito dei reality. Gabriella, prego. Buongiorno, io volevo buttargli una riflessione che spero possa essere utile e che penso tutti quelli che guardano la televisione dovrebbero fare. Ed è una riflessione relativamente al rapporto che c'è tra la realtà e la finzione, l'immagine. Il reality per primo, ma la televisione tutta, mostra quanto l'immagine e la realtà si compenetrino e in qualche modo si interferiscano, interagiscano. Non si capisce bene se il reality è l'immagine della realtà oppure se in qualche modo contribuisce a costruire la realtà. Io penso che entrambe le cose siano vere e penso che questo possa portare in sé dei benefici e delle opportunità, perché comunque la televisione, come tutti i mass media, ma soprattutto la televisione è molto seguita e quindi arriva dappertutto e questo può quindi far sì che si possano veicolare messaggi importanti e utili a costruire il mondo. Dall'altra parte questo ovviamente comporta anche dei rischi, dell'omologazione e quant'altro. Io penso che sia fondamentale. Grazie Gabriella, vorrei sapere da Simona Ventura, sì. Lei ha la sensazione di fare un lavoro che porta un rischio nelle case, cioè l'idea di creare una sensazione, io me ne prendo una responsabilità, anche se delle volte non ci si riesce, però per quanto mi riguarda l'Isola dei Famosi non ha questo elemento di finzione, mi piace, mi diverto, cerco di portare anche un momento di divertimento, cioè non mi prendo la responsabilità di essere di essere un santone in questo senso, cioè faccio un reality show che a me personalmente diverte molto e spero che diverta anche a casa. È un momento di evasione guardare l'Isola dei Famosi, di farsi una risata, cercare di permeare sempre tutto con una certa ironia e autoironia, questa è la cosa importante. È certo che ho la responsabilità, io intanto sono nel lavoro alla RAI, che per me è una cosa molto importante, che la RAI è comunque la TV degli italiani, c'è da 50 anni, gli italiani si sentono, anche se la politica questo non lo capisce molto bene, ma si sentono insomma un po' padroni di questa azienda, no? Che nel DNA loro da tanti anni, per cui fondamentalmente sento la responsabilità di questo. sacco di padroni questa azienda, gli italiani, i partiti politici, il governo. No, infatti il problema no, è no, che... ho capito bene. Il problema è che la RAI è la TV degli italiani, no, ma questo l'hanno capito un po' tutti, però sento la responsabilità di non mandare, almeno per quanto mi è possibile, un messaggio negativo a casa. Campo dall'Orto fa proprio la televisione destinata ai giovani, sono il target di MTV, no? Ne ha fatto anche molti altri tipi di televisione. Il rischio nel suo mestiere, lei lo calcola? Lei pensa che c'è un rischio educativo nel mandare in onda certe cose piuttosto che altre? Ma no, io credo che sia giusto calcolare, ma nell'ambito di programmi come questi si è in un ambito dove il rischio è molto basso, nel senso che penso che il rischio in queste situazioni venga filtrato poi dalla coscienza di ciascuno ed è abbastanza palese il meccanismo, quindi diciamo che i rischi di programmi come X Factor sono sotto controllo. Diciamo che il rischio maggiore, se vogliamo, è quello di una promessa rispetto alla possibilità per tanti di avere accesso a successo musicale attraverso il talento, che poi è una promessa che invece ha un fine, se vogliamo, puramente televisivo. Poi le storie, la narrazione attraverso il talento delle persone ha un fine di costruzione di un programma televisivo. Certo, questo certo, se vogliamo è, certo. Allora, se vediamo anche all'estero, questo tipo di spettacoli e di show hanno prodotto magari anche delle punte importanti come Lionel Lewis, in Italia Giussi Ferreri, ma sono delle punte alte che lasciano intorno a sé però un mondo che non ha tante medie, cioè mentre la discografia viveva di tanti artisti, oggi è come se puntasse alla lotteria di programmi come questi, dove vince uno ma tutti gli altri non riescono a vincere, e vince solo quando il talento poi si associa, come nel caso di Giussi Ferreri, a poi ad altri talenti come quello di Tiziano Ferro e i produttori che poi mettono insieme la musica. Dunque, un'ultimissima osservazione a Grasso e poi chiudiamo, e ringrazio tutti, ringrazio Simone Ventura, Mara Maionchi e Campo dall'Orto. Se io le facessi, Grasso, l'avvocato del diavolo, e le dicessi, magari a nome di Marco Lodoli, sì, voi critici postmoderni state lì a dire quanto è bella la televisione, il nuovo Balzac, i nuovi linguaggi, in realtà attraverso i reality show passa tanta merda, lei che mi risponderebbe? Voglio dire, tante cose basse, tante cose proprio spregevoli, ammiccamenti al gusto più belluino del pubblico, appunto, voyeurismi, eccetera. Cioè, la critica, non quella moralistica, il sopracciò, ma la critica dura, dice no, proprio rifiuto questo modello. Lei cosa risponde? Grasso. Pronto? Eccomi. Sì, no, dico, risponderei di sì, perché è vero che nei reality passano anche queste cose, ma insomma queste cose fanno parte della vita, semmai sono altre trasmissioni che se le nascondono, che le abbelliscono, eccetera. I reality hanno almeno il merito, appunto, di essere delle sedute di psicanalisi a cielo aperto, insomma, per cui certo che passano tutte queste cose qui, però non so, non... Quindi lei dice un po' di sudicio c'è, ma almeno il reality lo filtra in modo trasparente. Ma sì, esattamente questo, insomma. Cioè, va bene. Grazie ad Aldo Grasso, grazie a tutti voi, grazie agli ascoltatori e a Franca Fossati, Gloria Guerrero in redazione, a Valerio Rocchetti e Giorgio Mattè in regia, linea al GR e poi a Gianluca Nicoletti con Melo 2.0. Grazie.